Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, diciamo che oggi le borse, diciamolo subito, vanno particolarmente bene. Ci sono due elementi: da un lato la buona apertura di Wall Street ha aiutato anche le borse europee. Wall Street guadagna adesso l'1,20%, Francoforte il 2,40%, Parigi il 2,60%, Milano il 2,70%. Londra al 2%. Parrebbe che in America ci si stia avvicinando a un accordo sul cosiddetto fiscal cliff, ossia l'accordo che il presidente Obama deve raggiungere con il Congresso, con l'ala repubblicana soprattutto, per evitare l'automatismo del 31 dicembre, ossia la fine degli incentivi e delle agevolazioni fiscali e il contemporaneo aumento delle tasse che, stando, l'abbiamo ripetuto molte volte, a tutti gli studi, potrebbe comportare negli Stati Uniti una recessione pesantissima nel 2013. Ed è chiaro che è un rischio che va in tutti i modi scongiurato. E lì il tentativo di un accordo con i repubblicani per arrivare probabilmente a una maggiore imposizione fiscale per i ricchi. Lì, i repubblicani sono molto contrari a questo. C'è anche il tentativo obiettivamente di non smantellare le agevolazioni fiscali per i meno abbienti, e questo è il fronte americano. Il fronte europeo invece, domani c'è l'incontro in cui si discuterà anche e soprattutto di nuovo di Grecia. I ministri delle finanze dell'area euro si incontreranno a Bruxelles per gli aiuti alla Grecia, e anche qui c'è un po' di ottimismo. Fatto sta che oggi si compra dappertutto, ST Microelectronics la migliore più 7,60%, Popolare Emilia Romagna più 5,40%, Mediaset più 5%, Finmeccanica più 4,80%, Autogrill più 4,40%, Intesa San Paolo più 3,90% come Fiat. Il 3,60% lo guadagna UbiBanca e Tod's, ma anche Pirelli. Il 3,5% il rialzo di Tenaris e del Monte dei Paschi, ma anche di Luxottica e Impregilo e Unicredit e il Banco Popolare. Il 3,3% lo guadagna Prismian, Buzzi Unicem, il 3% il rialzo di Salvatore Ferragamo e di Enel. Chiudo con Ansaldo, STS ed Eni che guadagnano il 2,70% e la Popolare di Milano che assieme a Generali e a Fiat Industrial guadagna il 2,5%. Perde solo Atlantia meno 1,70% e Terna meno 1,20%. Questo tra i titoli a maggiore capitalizzazione. L'euro è a quota 1,28 sul dollaro. Di cosa parleremo di due cose, di tre temi che riguardano questa giornata. Da un lato la missione del Premier Mario Monti nella penisola arabica, Oman, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita. Ci sono prospettive interessantissime e anche qui diciamolo subito, non c'è niente di male se qualche fondo sovrano vuole entrare nelle partecipazioni italiane. Il problema di questo paese non è la colonizzazione dei fondi esteri, abbiate pazienza, ma è il fatto che qui non vuole venire nessuno. Magari ci fosse un problema che troppi investitori esteri vogliono investire e comprare, comprare diciamo Italia. Mi sembra che il problema sia l'opposto. La liquidità non manca in quell'area geografica. L'Italia è ben presente in alcuni di questi Emirati e di questi paesi. Praticamente mi sembra che la missione stia andando anche a ottenere determinati risultati. Ne parleremo alle 18:05, 18:10. L'altro tema riguarda l'accordo sulla produttività che oggi la UILM ha firmato, la CGIL è fuori, questo è un tema molto italiano, di questo parleremo subito in apertura, unitamente del terzo elemento a un insieme di dati che oggi sono usciti, purtroppo sono in linea con quelli delle settimane scorse. C'è a questo punto un'oggettiva frenata della nostra industria, l'abbiamo visto sulla produttività industriale la settimana scorsa, anche sull'export, e oggi il dato riguarda sempre gli ultimi mesi, anche ordinativi e fatturato vanno male, nel senso che c'è un calo del 5% sul fatturato industriale, commentato anche dal presidente Confindustria Squinzi, un settembre orrido, in ottobre dovremmo avere dei dati leggermente migliori, gli ordinativi hanno fatto meno 12,8% rispetto al settembre del 2011, un dato così brutto non lo ricordo dal 2009, ma vado a memoria, e il fatturato ha fatto meno 5% rispetto all'anno prima. La cosa interessante è che gli ordini sono crollati dall'estero, e questo è in linea con quanto raccontavamo venerdì nel calo del nostro export, meno 16%, il mercato interno ha fatto meno 8%, ma ripeto, il mercato interno purtroppo non fa quasi più notizia, è fermo, stagnante, se non in recessione. È dall'estero che invece fino ad oggi abbiamo avuto notizie più positive. E anche di questo parleremo. La borsa continua a migliorare, intanto più 2,84%, l'ultima cifra è quella per i vostri sms, 349-238-6666. Petrolio e oro, oro in aumento a $1,721, petrolio oggi è in forte rialzo ma sempre sotto i $90 al barile, mi riferisco agli Stati Uniti, $88,39, se in America la fiducia dei costruttori dell'edilizia balza a novembre ai massimi degli ultimi 6 anni, l'indice della National Association of Home Builders. In Europa invece la produzione edilizia torna a calare a settembre, in Italia c'è un vero e proprio crollo, meno 8%, peggio di noi fanno solo il Portogallo, meno 13,5% e basta. Bene invece la Germania, più 3%, la Slovenia più 17%, è chiaro che gli investimenti e l'attività dell'edilizia è uno di quei segnali ciclici, cioè va bene quando l'economia tira, va male quando l'economia rallenta, non c'è niente di anticiclico nell'edilizia. E c'è un invito che ogni tanto arriva, io capisco, Barisone ci dia delle belle notizie che abbiamo voglia di lavorare, ma guardate, insomma, ogni tanto qualche bella notizia ce l'abbiamo, noi dobbiamo dare le notizie, non belle o brutte. Mi rendo conto che in questo periodo siano sicuramente poche quelle belle, e vi assicuro che non è facile nemmeno per chi vi parla aprire la pagina dell'attualità economica e finanziaria sempre, no? Con questo 2 di novembre che ci accompagna dal 2008 con poche, pochissime eccezioni. Oh, dalla Spagna arriva una cosa interessantissima però in tema di crisi e di edilizia. Dopo che la settimana scorsa la Spagna ha adottato una misura estrema, cioè ha messo in moratoria tutti i pignoramenti per i non abbienti, bloccando di fatto per 2 anni tutti i pignoramenti per le fasce più basse di reddito. C'erano stati alcuni suicidi in Spagna proprio di persone che avevano visto la casa pignorata perché non riuscivano a pagare il mutuo. Sapete che lì c'è stata una bolla immobiliare fortissima, le banche spagnole sono state tra virgolette, assieme a quelle irlandesi, quelle un po' più americane, hanno concesso mutui per un mercato che continuava a aumentare di valore, era facile concedere mutui, li hanno concessi, come si è poi scoperto, anche in maniera, diciamo, non prudente, per essere buoni. Allora in Spagna oggi il governo ha deciso che concederà il permesso di residenza agli stranieri che acquisteranno una casa in Spagna per un importo superiore ai 160.000 euro, che non è una cifra immensa adesso obiettivamente per una casa. Misura anticipata oggi dal segretario per il commercio, l'iniziativa è diretta soprattutto ai mercati russo e cinese, per cui i russi e i cinesi potranno diventare cittadini spagnoli, residenti in Spagna se comprano una casa. No, non è un'idea che dobbiamo per forza escludere anche noi, anche se qua sul tema della cittadinanza ci sarebbero altri punti da mettere in evidenza. Vabbè. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, fa sapere che l'andamento economico in Germania sta rallentando sensibilmente, e qui lasciatemi dire, cari tedeschi, ve l'avevamo detto che stringere e mettere in ginocchio buona parte d'Europa per una austerity senza crescita, senza sbocchi, solo sui conti, da ragionieri della Germania dell'Est, avrebbe portato a una frenata complessiva del continente, sta avvenendo. E siccome la Germania vive di esportazioni quanto noi, abbiate pazienza, ne becca anche lei le conseguenze. Tra l'altro, in ampie parti della produzione economica tedesca, dice la Bundesbank, manca la fiducia che si possano attendere nuovi impulsi congiunturali a breve termine. E te credo, abbiamo anche il Fiscal Compact. Parleremo anche di Italia e Svizzera, perché sono in corso i lavori per un accordo di collaborazione fiscale tra Italia e Svizzera che consentirà di tassare i risparmi depositati sui conti correnti di Lugano e Zurigo, che sono nel 90% dei casi i soldi portati all'estero illegalmente, parliamoci chiaro. L'Unione Europea inizialmente era contraria a accordi Stato con Stato, come fece la Germania. Adesso ha cambiato idea, voleva l'Unione Europea, voleva un accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera, non tra i singoli stati e la Svizzera. Adesso ha cambiato idea. Dico solo che se l'Italia riuscisse a firmare con la Svizzera un accordo sul modello di quello austriaco, e l'Austria non mi sembra, 25% una tantum sul patrimonio e 25% ogni anno sugli interessi maturati, in cambio dell'anonimato, cioè il governo svizzero si fa garante dell'anonimato e dà questi soldi, otterrebbe subito 37 miliardi di euro, cioè 2 punti percentuali di PIL, anche forse qualcosa in più, due manovre finanziarie, e poi un flusso di 500 e 600 milioni l'anno, che pure quello, no? 37 miliardi di euro, cioè avremmo chiuso il problema delle finanziarie per il 2013-2014, grazie, diciamo, alla solidarietà di chi ha portato i capitali illegalmente all'estero, quindi voglio dire, mi sembra il minimo, altro che il 5% di scudo. I capitali italiani nascosti in Svizzera dovrebbero essere, stando alle ultime stime, circa 150 miliardi di euro. E tant'è che il governo svizzero dice, siamo fiduciosi che vi possa essere un'intesa entro il 21 dicembre. Non è solo l'Italia, ci sono tanti altri paesi che stanno trattando con la Svizzera, è chiaramente molto appetibile, sono molto appetibili le cassette di sicurezza svizzere. E tra l'altro devo dire che l'Austria e la Germania hanno tracciato la strada in maniera abbastanza netta. Si potrebbe semplicemente applicare quel modello. Tra l'altro il fondo strategico italiano, controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti della Qatar Holding, oggi ha firmato un accordo per costruire una joint venture denominata IQ Made in Italy Venture, un fondo di venture capital che avrà 300 milioni iniziali, arriverà fino a 2 miliardi di euro. E ha detto Monti, tra l'altro, è il momento di comprare anche a buon mercato, ha cercato un po' di fare marketing per l'Italia, visto che le valutazioni sono basse, ma probabilmente torneranno a salire nei prossimi anni. E poi ha ribadito il Premier, aprire capitali esteri non è svendere. Allora, adesso arriviamo all'accordo parziale, perché la CGIL non è dentro, sulla produttività. Prima di tutto però qualche aggiornamento sulla crisi degli altri e anche su quello che, diciamo, la classe politica a ogni livello fa o non fa rispetto a questa crisi. 349-238-6666 per i vostri sms. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, fa effetto, lo dico in maniera molto neutra, leggere su vari giornali che ci sono le scuole in vendita. In realtà anche qui bisogna essere molto cauti, può essere un'opportunità per i comuni, non è necessariamente il segnale del disfacimento della cosa pubblica. Per esempio, in provincia di Ravenna, Bagno Cavallo, c'è un'agenzia immobiliare ha messo in vendita una scuola che era già stata venduta nel 2005, acquistata da un privato, adesso vende di nuovo il privato. Chi vorrà abitare nell'ex scuola dovrà pagare 840.000 euro, circa 2.300 euro al metro quadro. A Casale Monferrato hanno messo in vendita una vecchia scuola elementare, 74.000 euro. Poi ci sono le vendite che sono la conseguenza degli accorpamenti decisi dal governo Berlusconi un anno e mezzo fa, o anche dalla necessità di recuperare soldi da parte dei comuni. A Teramo il comune mette in vendita un'ex scuola elementare, 3.000 metri quadrati per 500.000 di euro. A San Vincenzo di Oderzo, in provincia di Treviso, scade il 21 novembre, si può comprare un'ex scuola elementare a 480.000 euro. E ancora a Fasano, in Puglia, hanno trasferito gli alunni della scuola elementare della frazione in una scuola media del paese, e quindi è in vendita la scuola elementare, assumerà infatti la destinazione d'uso di residenziale. 444.000 euro, peccato che la prima gara sia andata sostanzialmente deserta. E anche a Cesena hanno già venduto la scuola di la San Cristoforo a 670.000 euro prezzo base, e la Torre del Molo già piazzata dopo un'asta con 475.000 euro. Ecco, mentre addirittura i comuni si attrezzano vendendo le scuole, scopriamo l'ennesimo scandalo che riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari e soprattutto perché ne hanno beneficiato i fratelli dei principali boss mafiosi. Gaetano Riina, fratello del più noto Totò Riina, l'anno scorso si è visto confermare in appello una condanna a restituire all'AGEA, che è l'agenzia che eroga i finanziamenti agli agricoltori, 25.000 euro di contributi pubblici che aveva ricevuto. Per ben 7 anni, dal 97 al 2004, ha ottenuto pure il certificato antimafia. Ma io dico, con tutto quello che costa come pratica burocratica anche agli imprenditori, o è una cosa seria? Ma come si fa a dare il certificato antimafia a uno che, almeno il sospetto, no? Nomen omen. Si chiama Gaetano Riina. Ora, non tutti i Riina saranno mafiosi, ma ci mancherebbe, però Gaetano Riina, forse uno un controllo lo fa, no? Cioè, nella vita. La stessa cosa a Giuseppe Spera, fratello di Benedetto Spera, che è morto in carcere nel 2007, ma era, guarda caso, uno degli uomini più fidati di Bernardo Provenzano. Anche lui domanda attraverso una situazione di categoria, anche allora nessuno fa le verifiche, ottiene il certificato antimafia, e poi i giudici contabili si rendono conto che i suoi eredi dovranno rimborsare 38.600 euro per i fondi ricevuti dal 97 al 2002. La Corte dei Conti ha stimato, con 50 sentenze per danno erariale, che i contributi truffati sarebbero circa 2 milioni di euro. 2 milioni di euro. E però dalla Sicilia arriva anche una buona notizia, e lo dico per chiudere questo nostro appuntamento, e cioè il governatore Crocetta e gli addetti ha detto sostanzialmente: attenzione, tutti i 21 giornalisti dell'ufficio stampa, 21 giornalisti, cioè Lombardo e prima di lui Cuffaro, erano riusciti ad avere nell'ufficio stampa della regione Sicilia, che tra l'altro noi non ci ha mai contattato in un anno che ne parliamo, 21 giornalisti. Ma la cosa più grave è, oltre al numero, è che tutti quanti avevano la qualifica di caporedattore, che è la qualifica massima per un giornalista. 21 caporedattori, dico solo, Radio 24 siamo in 3, tutti inclusi. Allora, 21 caporedattori, Crocetta dice, i loro contratti sono decaduti dal giorno in cui mi sono insediato. Se sono ancora al loro posto, lo sono in modo volontario, li ringrazio, gli verranno retribuite queste giornate. Però, se vorranno fare vertenza, cioè quindi causa, lo facciano pure. Non hanno un rapporto a tempo indeterminato perché non hanno fatto un concorso pubblico, il loro rapporto è fiduciario, presenti nei curricula e li verificherò. Costano 3 milioni e 200 mila euro l'anno 21 caporedattori all'ufficio stampa della regione. 21 caporedattori. Con questi soldi la regione può pagare 200 precari, e aggiunge Crocetta, nemmeno alla RAI ci sono 21 capi redattori. E allora, complimenti, un applauso glielo diamo al neopresidente, perché perché è riuscito veramente, diamogli anche un altro applauso, perché è riuscito veramente a fare una cosa che noi denunciavamo, molti di voi ci scrivono, ma tutto quello che denunciate poi non succede niente, spesso non succede niente perché se ne fregano, però sta cosa dei 21 capi redattori la denunciamo 2-3 anni fa, la ricordo ancora, non capito nulla, adesso è arrivato Crocetta, vedete, le cose possono cambiare, non mi sta particolarmente simpatico Crocetta, ma ha detto grazie, il vostro rapporto di lavoro è terminato. Questo è l'esatto opposto di quello che è successo invece sempre in Sicilia, nel comune di Serra di Falco, provincia di Caltanissetta, dove il sindaco del PD, Giuseppe Daqui, prima ha annunciato che non avrebbe ricevuto lo stipendio, poi lo ha ricevuto di nascosto, ma come si può di nascosto, il 50%, mentre i suoi consiglieri non ne sapevano nulla. Quando si è scoperto ha detto chiedo scusa, la giunta lo ignorava per una mancata comunicazione. No, la giunta era convinta, caro sindaco, che lei fosse una persona coerente e che se dice che rinuncia allo stipendio, poi ci rinuncia. Non è che poi se ne prende il 50% e che si dimentica di comunicarlo. Comunque, non voglio essere polemico, di nuovo un applauso a Crocetta. Allora, come va? Male la nostra produzione industriale, dice appunto il presidente Confindustria, settembre orrido, ottobre avremo dati migliori, la Federmeccanica che riunisce tutte le imprese che operano nel settore meccanico e metalmeccanico di questo paese dice i primi 9 mesi la produzione ha fatto meno 7%, e un quadro che, come ha detto il direttore, il vicepresidente di Federmeccanica Roberto Maglione alla nostra Alessandra Schepisi, resterà negativo. Continua a essere negativo ed è negativo da 5 trimestri, quindi è una congiuntura che di fatto sta diventando strutturale, in altri termini è un trend negativo che non sta vedendo grandi possibilità di ripresa. C'è un settore che invece tiene un po' meglio? Diciamo che soprattutto in quest'ultimo trimestre il comparto metalmeccanico che sta meglio tenendo è quella della costruzione di veicoli ferroviari e la costruzione delle navi, cioè è un po' quello che un tempo si diceva industria pesante. Per quanto riguarda l'export invece? Per quanto riguarda l'export, le imprese che lavorano per l'export sono sempre quelle più dinamiche e diciamo tra virgolette avvantaggiate pur nell'ambito di questa crisi strutturale. Qualche segnale preoccupante arriva dall'Europa, altri paesi invece sono sempre paesi dinamici che attraggono il nostro export. Novità di interesse sono il Giappone e l'America. Per il futuro che cosa ci possiamo aspettare per il 2013? C'è qualche segnale incoraggiante? Purtroppo anche la nostra indagine congiunturale, l'indagine fatta presso i nostri associati, non vede grandi possibilità di ripresa nel corso neanche del 2013. Sull'occupazione invece che cosa si prevede per il 2013? L'occupazione per quanto riguarda i grandi gruppi questa ha tendenzialmente tenuto nel corso dell'ultimo trimestre, si pensa e si spera anche entro fine anno, il prossimo anno vedremo. È chiaro che il grosso contraccolpo ci sarà sull'occupazione per le piccole e medie imprese che sono focalizzate sul mercato interno. Quale potrebbe essere una ricetta per favorire la ripresa del settore? Innanzitutto la pubblica amministrazione dovrebbe incominciare a pagare e secondo ci sono alcuni programmi governativi tipo quello dell'agenda digitale che potrebbero creare un volano di investimenti e quindi porre le basi per una ripresa, ancorché non strutturale, però una ripresa che potrebbe dare un po' di fiato al sistema. Eh sì, le prospettive non sono belle secondo Federmeccanica. A Federmeccanica oggi si è parlato anche dell'accordo con la CGIL fuori sulla produttività. Questo sarà il prossimo tema di Focus Economia. Vi anticipo che la borsa ha chiuso sui massimi, più 3% Milano, più 3% Parigi, più 2,50 Francoforte, più 2,30 Londra, l'America più 1,20. Vedo molti messaggi sull'accordo Italia-Svizzera, un po' di pazienza, ne parleremo alle 18.10. Certo che il rischio è che più ne parli e più i capitali si spostino, però lì, attenzione, dovrebbe essere anche interesse della Svizzera mantenerli nei suoi conti correnti, quindi non è semplicemente come l'annuncio di una patrimoniale che... ma lì dovrebbe essere la Svizzera a garantire e a cercare di, perché ne ha tutto l'interesse, di tenersi i clienti. Dall'altro lato molti fanno notare che il 21 dicembre, giorno entro il quale dovrebbe essere chiuso l'accordo, è la fine del mondo secondo il calendario Maya, ma sarà la fine del mondo per chi porta dei soldi in Svizzera al massimo. L'accordo sulla produttività invece, e veniamo invece al tema di questa puntata della cronaca, è stato alla fine chiuso senza però la CGIL. Questo potrebbe portare qualche problema, perché sappiamo che la CGIL e la FIOM soprattutto hanno una forte rappresentanza sindacale nelle imprese, però alla fine con il sì della UIL, che ha chiesto una detassazione, si è arrivati alla firma finale, pur con il giudizio negativo di Susanna Camusso, segretaria della CGIL. Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Dunque, anche la UIL ha firmato, ha chiesto però la detassazione dei premi di produttività. In sostanza, che cosa hanno firmato Confindustria, Rete Imprese per l'Italia, i sindacati senza la CGIL? Poi vediamo perché la CGIL non ha firmato. Ma guarda, la UIL ha firmato e ha chiaramente apposto, diciamo, un aspetto che però è già nell'accordo, già nel testo insomma che era stato inviato dalle imprese, cioè il testo contiene tutta una premessa, poi il documento che peraltro abbiamo pubblicato anche sul sito del Sole 24 Ore, contiene una premessa diciamo che politica, che sostanzialmente chiede al governo, esplicita la richiesta di detassare al 10% appunto di proseguire la detassazione al 10% del salario di produttività, esplicitando che questa detassazione si deve applicare ai redditi fino a 40.000 euro. Sapete che appunto in virtù della legge di stabilità dello scorso anno è stato abbassato a 30.000 euro il tetto di reddito, e si esplicita quindi sostanzialmente anche la richiesta poi di rendere strutturale questa misura. La UIL, nell'aderire a questo documento, non fa altro che ribadire la richiesta al governo, perché una cosa che si è sottovalutata finora è che in realtà l'intesa tra le parti sociali è solo il primo momento, diciamo, di questa operazione. Questo testo poi dovrà essere mandato al governo e il governo dovrà appunto poi dire la sua, perché il governo entro il 15 gennaio dovrà redigere il DPCM che conterrà i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate agli accordi di produttività. Quindi diciamo la partita in realtà ancora appunto va chiarito se è chiusa tra le parti sociali. Quando sarà chiusa le parti sociali poi dovrà essere chiusa anche con il governo. Quindi diciamo siamo ancora... Che ha messo 1,6 miliardi sul piatto, diciamo. Complessivamente sono di più le risorse. Sì, è vero. La legge di stabilità sono 2 miliardi 150 nel triennio. Mm. Ecco, per far capire a tutti i motivi, sì, per cui la CGIL non ha firmato, perché oggi la Camusso dice: il testo definitivo contiene elementi non condivisibili. Il giudizio della CGIL resta negativo su alcune parti del testo, considera non esaurito il confronto. Però Squinzi in qualche modo ha risposto indirettamente, dice: l'accordo l'abbiamo firmato, noi ci crediamo, andiamo avanti, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Il sogno comunque, ha aggiunto Squinzi, è avere la firma di tutti, e anche il ministro Passera ha detto è nell'interesse del paese avere il massimo consenso. Ora non sfugge a nessuno che firmare gli accordi senza la CGIL, che è molto rappresentata in alcune componenti, la meccanica ma non solo, rischi di rendere traballante, zoppicante l'accordo. Ma su cos'è? È sulla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro che la CGIL poi si è... Ma guarda, ci sono, la CGIL sostanzialmente ha sottolineato tre aspetti, diciamo, che non condivide di questo documento. Attenzione, perché la CGIL non ha ancora esplicitato un no. questo documento interno che la CGIL ha voluto, come dire, rendere poi pubblico, diffondere, che la Camusso ha mandato alle strutture, in cui dice sostanzialmente non condivido quel documento per tre ragioni. E quindi diciamo poi, e non considero però esaurito il confronto. Ora è chiaro, è molto difficile che si riapra la partita, visto che poi sono 8 complessivi soggetti, che 7 di questi hanno già detto di condividere quel testo, no? Quindi nel momento in cui riapri la partita, devi poi dovresti ricreare un'intesa anche con gli altri, quindi è molto difficile. Però resta il fatto, insomma, che ancora formalmente, diciamo, non c'è stata da parte della CGIL, pur evidenziando un giudizio negativo. Quali sono gli elementi? Gli elementi sono: uno riguarda, diciamo, come dite, l'aspetto della rappresentanza. Tenete conto però che il documento, in realtà, sul punto della rappresentanza, con l'accordo interconfederale del 28 giugno del 2011, le parti sociali si erano impegnate sostanzialmente a introdurre criteri di misurazione della rappresentanza nel privato, per far sì che sostanzialmente le sigle sindacali che superano una soglia del 5%, inteso come iscritti e voti alle elezioni della RSU, potessero sedersi al tavolo, ai tavoli negoziali. Quindi chi è sotto questa soglia, come già accade nel pubblico impiego, non può partecipare ai negoziati. Ebbene, il documento Confindustria, Rete Imprese, appunto ABI, eccetera, quello che hanno sottoscritto appunto CISL e UIL, contiene un impegno entro il 31 dicembre di quest'anno a dare attuazione a quell'accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza, che sta molto a cuore alla CGIL. E quindi, diciamo, per esempio, c'è da chiedersi a questo punto, insomma, la CGIL sicuramente ha tutto l'interesse a che venga data attuazione a quell'accordo, e l'attuazione, ripeto, è un punto di questo documento. Gli altri due aspetti che la CGIL contesta, diciamo, del documento sottoscritto dagli altri, riguarda la garanzia del potere d'acquisto da parte del contratto nazionale, e poi la questione che viene sostanzialmente il problema delle mansioni, dei cosiddetti demansioni. Però, insomma, per concludere, tu dici la CGIL è contraria, ha molte perplessità sul documento interno che poi deve essere sottoposto al governo. Non è detto però, per il ragionamento che tu facevi, che non abbia qualche interesse a comunque chiudere la partita, se posso. Insomma, appunto, cioè, comunque resta il fatto che insomma, adesso appunto non si sa, probabilmente mercoledì, insomma, ancora non si sa, questo documento dovrà essere mandato al governo. Questo documento sarà oggetto poi di, diciamo, l'attuazione di questo documento, ci sarà prima una risposta da parte del governo sui contenuti, e questa risposta deve essere data entro il 15 gennaio, come dicevo, nell'ambito del decreto che terrà i contenuti, ricordiamo l'oggetto sono gli accordi di produttività, cioè cosa devono contenere questi accordi di produttività per beneficiare dei finanziamenti messi nella legge di stabilità. E poi però subito dopo si apre, cioè subito dopo, dalle prossime settimane, prima della fine dell'anno, bisogna raggiungere un'intesa su un aspetto molto importante di questo documento, che riguarda la rappresentanza sindacale, come misurare la rappresentanza sindacale, cosa che è particolarmente a cuore della CGIL ed è uno dei punti chiari messi nero su bianco in questo documento che la CGIL ancora non vuole sottoscrivere. Però appunto, quindi la partita, insomma, come dire, è ancora rimane, certo, un po' aperta. Beh, questo ci dà già una possibilità in più. Grazie a Giorgio Pogliotti. La buona notizia di oggi riguarda proprio la borsa, forse la migliore che abbiamo come notizia, perché ha chiuso sui massimi, più 3%, più 2,5 Parigi, più 2,5 Francoforte, più 2,90 Parigi, più 2,30 Londra, più 1,26 l'America. Notizie europee e americane, a mio avviso anche molti pretesti per comprare dopo giornate deboli. Comunque la borsa, pretesti o non pretesti, lo chiediamo come sempre a Radio Cori, il Sole 24 Ore, che ci aggiorna ogni puntata, con Andrea Fontana. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Sicuramente diciamo che non ci sono novità così forti da muovere oggi i titoli di 3 punti percentuali, gli indici di 3 punti percentuali, certamente questo ottimismo sulla possibilità di un accordo negli Stati Uniti che vada ad evitare il fiscal cliff che scatterebbe a gennaio, quindi con tasse e tagli per 600 miliardi di dollari, certamente ha dato ottimismo al mercato, anche peraltro l'incontro di domani dei ministri delle finanze dell'Europa sulla questione del debito greco, però sono certamente argomenti diciamo così non puntuali che vanno a muovere i singoli titoli, certamente un ottimismo di mercato, anche molti titoli e anche in Italia che hanno recuperato dai minimi, è il caso ad esempio di Mediaset e Fiat, per dire due dei titoli più in vista. Sì, anche a me è sembrato un acquisto tra virgolette indiscriminato, cioè senza motivi. Comunque benissimo, ST Microelectronics più 7,90, bene tutte le banche, Popolare Emilia Romagna più 5,60, Intesa più 4, Unicredito più 3,90, Ubibanca più 3,90, Monte dei Paschi più 3,80, Banco Popolare più 3,70 e poi Mediaset più 5,30, Finmeccanica più 4,80, Autogrill più 4,30, Fiat più 4,20, segnalo anche TOZ più 3,70%. Adesso su ST Microelectronics c'è ottimismo per il 2013, ma Fiat che è successo? Perché insomma, bene anche l'auto è più 4,20. Sì, bene tutto il settore auto. Per quanto riguarda Fiat, come detto, l'altro giorno si era arrivati a trattare a dei valori che erano molto vicini ai minimi dell'anno, quindi un rimbalzo che ci sta nel clima della giornata a cui tu accennavi, certamente ha influito su Fiat anche quella che è stata invece una notizia puntuale che riguardava la sorella, cioè Fiat Industrial, che ha guadagnato il 2,7%. Perché? Perché Fiat Industrial ha formulato l'offerta definitiva per la fusione con la controllata americana CNH specializzata nei motori e nei veicoli nei mezzi agricoli, un'offerta migliorativa del 25% rispetto a quella precedente, che comprende anche un importante dividendo straordinario. CNH ha reagito negli Stati Uniti con un più 5, Fiat Industrial con un più 2,7, e nel clima positivo dell'auto Fiat ha guadagnato il 4,2%. Questo per quello che riguarda Fiat. Invece, bene le banche, ma anche qui abbiamo detto, Pirelli più 3,60%. Per quanto riguarda Pirelli, è già da qualche giorno che si aspetta la parola definitiva su questo riassetto a monte della catena di controllo di Pirelli, quindi con due fondi di investimento, Clessidra e la Invest Industrial di Andrea Bonomi, che potrebbero affiancare Marco Tronchetti Provera. Va detto che Pirelli l'altro giorno ha fornito indicazioni sui conti, sulle prospettive del 2012-2013, magari un po' difficoltose dal punto di vista dei volumi, ma certamente molto positive dal punto di vista dei margini, e qualche casa di investimento ha tenuto conto di questo per migliorare un po' le indicazioni e le ricoperture su questo titolo. Chiudiamo la pagina di borsa e poi ci concentriamo sulla Svizzera e sulla penisola araba. Andrea Fontana, dicevamo mancavano Finmeccanica e Mediaset. Mediaset più 5,30, Finmeccanica più 4,80 in una giornata, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento, molto positiva per le borse. Milano ha guadagnato il 3%. Per quanto riguarda Mediaset, direi un rimbalzo che ci voleva dopo i conti veramente pesanti del terzo trimestre. Il titolo era sceso in area 1,16, quindi ai minimi dell'anno, quindi un rimbalzo, una ricopertura che ci stava per un titolo che dall'inizio dell'anno ha perso quasi il 43%. Per quanto riguarda Finmeccanica invece, una buona prestazione, più 4,8%, figlia soprattutto dell'attesa, e ormai siamo alle battute finali dell'anno di queste dismissioni che il gruppo ha annunciato e confermato più volte per quasi 1 miliardo di euro. In particolare nel fine settimana si è parlato dell'interesse di un gruppo giapponese, Nidec, per Ansaldo Energia. Il mercato pensa che ormai siamo alle settimane cruciali per chiudere almeno una di queste dismissioni, che farebbe molto bene al debito di Finmeccanica e molto bene al titolo. Grazie Andrea Fontana. Diamo anche i migliori e i peggiori in assoluto. Come sempre, SNAI più 18,20, Nokia più 8,5, Meridie più 8,27 e il Credito Valtellinese più 6,17%. I peggiori, Ion Renewables meno 9,47, Banca Popolare dell'Etruria meno 6,54%. Restiamo in tema però di finanza, ma in questo caso non di guardie di finanza, ma comunque di quello che potrebbe essere l'accordo, forse addirittura d'arrivo, tra l'Italia e la Svizzera, un accordo che fa gola soprattutto al governo italiano, anche perché se si dovesse fare un accordo simile a quello fatto dall'Austria, cioè 25% di tasse per i patrimoni spesso illegalmente depositati in Svizzera e un altro 25% per ogni anno sugli interessi maturati, calcolando quella che è la stima italiana, cioè circa 150 miliardi di capitali di nostri connazionali depositati in Svizzera, intascheremo in una botta sola 37 miliardi più altri 600 milioni di euro all'anno. Certo, non è un accordo che si sta firmando in questo momento. La Germania l'ha già fatto, ma l'Europa ha sbloccato quello che era un veto iniziale. Inizialmente Bruxelles aveva detto non vogliamo accordi bilaterali, vogliamo un accordo unico con l'Unione Europea. Adesso ha detto no, i paesi possono fare anche accordi bilaterali. Gli accordi la Svizzera li ha già firmati, oltre che con l'Austria, anche con il Regno Unito e la Germania. Il contribuente inglese o tedesco con un conto in Svizzera pagherà un'imposta una tantum. L'aliquota va dal 19 al 34%. E poi dal 2013 il contribuente inglese o tedesco pagherà su qualsiasi tipo di reddito generato dal conto le imposte dovute nel proprio paese. Quindi gli interessi che sviluppa un conto corrente in Svizzera vengono tassati come verrebbero tassati gli interessi che dovesse sviluppare un conto corrente in Italia. In Germania l'aliquota del 26-27%, nel Regno Unito del 27% sugli utili in capitale, del 40% sui dividendi, del 48% sugli interessi. Lino Terlizzi, che è corrispondente dalla Svizzera del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Lino, in una battuta, ma insomma, in realtà chi paga, cioè chi dà i soldi a questi paesi, in realtà è il fisco svizzero, no? L'agenzia delle entrate svizzera che poi li rigira ai vari stati, giusto? Sono le banche svizzere stesse che fanno, okay, praticamente, diciamo, da per così dire sostituti d'imposta, ecco, diciamo, nel senso che prelevano e poi provvedono, in accordo naturalmente con le autorità elvetiche, a girare gli importi relativi agli stati con cui vengono fatti questi accordi. Lino, le possibilità, perché la Svizzera ha detto noi vogliamo firmare un'intesa con l'Italia entro il 21-12, lo ha detto l'ambasciatore Oskar Knapp, che è responsabile anche della divisione mercati. Quanto avanzate sono queste trattative? Sono abbastanza avanzate a quanto pare, in effetti, facendo un po' la somma delle voci sia sul versante elvetico che sul versante italiano. Certamente ci sono dei problemi non indifferenti, ne ricordo uno ancora da risolvere, quello dell'aliquota relativa all'Italia, perché questi accordi cosiddetti Rubik, dal nome del famoso cubo magico in cui poi la sfida è far andare tutti i tasselli al loro posto. Ecco, questi accordi prevedono che le aliquote non siano identiche da paese a paese. Quelle, per esempio, con Gran Bretagna e Germania, per quanto riguarda l'imposizione sul pregresso, sui capitali depositati, si vede quanti anni sono stati in Svizzera senza essere dichiarati, si vede il loro ammontare. Le aliquote sono state aggiornate poi in fase finale di accordo tra il 21 e il 41%, quelle l'Austria 15 e 38%. Però Quello che si dice in Svizzera, sostanzialmente, ridotto in sintesi, è che se si applicano delle aliquote di questo tipo anche alla realtà italiana, il rischio è che l'operazione non riesca. Perché? Perché ci sono stati scudi fiscali dove le aliquote erano di molto inferiori. Quindi quello che si dice dalla Svizzera, non tutti ma molti lo dicono, è che le aliquote dovrebbero essere, per quanto riguarda l'imposizione una tantum sul pregresso e sui patrimoni non dichiarati, dovrebbe essere inferiore, si dice qui tra il 10 e il 15%. Però la posizione dell'Italia naturalmente è invece che l'aliquota deve essere più elevata e sostanzialmente allineata a quella praticata con la Germania e la Gran Bretagna. Quindi questo è un punto importante ancora da risolvere, certamente. Però i negoziatori, forse saggiamente, sull'un versante come sull'altro, hanno cercato di non partire da qui, cioè dal punto di dissenso, ma dagli altri punti. Allora, c'è un altro tema che segnalano anche molti ascoltatori, e dove ringrazio anche per averci raggiunto Giovanni Parente del Sole 24 Ore. L'altro tema riguarda l'effetto annuncio. Scrive adesso un ascoltatore: è un anno che le banche svizzere consigliano ai loro clienti di trasferire tutto dalla Svizzera a Singapore, Hong Kong, Abu Dhabi, e cioè magari nelle filiali delle banche svizzere, UBS, Credit Suisse, a Singapore, Hong Kong e Abu Dhabi. Giovanni, sappiamo che in queste cose prima bisognerebbe farle e poi annunciarle, e non vorremmo che da qua al 21 il flusso di capitali fosse tale che poi scopriamo che in Svizzera i soldi ce li abbiamo forse io e te e basta, ecco, prego. No, è vero, il problema è esattamente questo, cioè più tardi, più tempo si impiega per fare questo accordo, più c'è il rischio che i capitali si spostino in altri paradisi fiscali. Magari anche aiutati dalle banche svizzere stesse, perché poi conosciamo che la Svizzera, tante qualità, su certo. Quel fronte, diciamo, pecunia non olet, il denaro non puzza, prego. Assolutamente, cioè non possiamo escludere che siano gli stessi intermediari finanziari che in qualche modo hanno attratto capitali dall'Italia alla Svizzera, poi in qualche modo ad aiutarli verso altri paesi che hanno fiscalità di vantaggio. Quindi qui già è una lotta contro il tempo, perché è chiaro che l'avvicinarsi alla fine della legislatura impone dei ritmi serrati. Poi c'è questo problema ulteriore che impone anche di valutare se andando troppo in là con i tempi si dà appunto lo suolo a poter spostare i capitali in altri paesi. Sì, molti scrivono magari ci sono tanti capitali anche della mafia, non lo so, obiettivamente non è che la mafia ci comunichi via fax dove va a spostare il denaro. Certo che va in paradisi fiscali, certo che la Svizzera è stata più volte, ha avuto un braccio di ferro molto duro con l'Europa perché si profilava quasi come un paradiso fiscale per la riservatezza delle informazioni, non tanto per il resto. Le stime, Giovanni, divulgate 37 miliardi una botta sola, ti convincono o sono troppo ottimistiche? Temo che siano un po' troppo ottimistiche, ma è un mio timore che è fondato sul fatto che appunto non sappiamo quanta effettiva consistenza c'è in Svizzera. Poi oltretutto, come ricordavi tu prima, ci sono stati già gli scudi fiscali. Che cosa si farà con i capitali già rimpatriati e già oggetto le due sanatorie? Si includerà di nuovo in questo monte complessivo, certo, oppure li si escluderà? Ecco, perché questo diventa poi decisivo per capire quanto gettito darà sul pregresso e quanto gettito riuscirà a dare poi negli anni a seguire, perché ricordiamo che l'accordo si comporrà di queste due parti, cioè sanare il pregresso e in qualche modo fare in modo che ci sia un prelievo costante, una ritenuta alla fonte delle banche svizzere anche per il futuro. 18:21, parliamo adesso della missione che prosegue del Premier Mario Monti nei paesi del Golfo Persico. Dopo la tappa in Kuwait, questa mattina il Presidente del Consiglio è stato in Qatar e poi nel pomeriggio è partito per Muscat in Oman per incontrare il sultano Qaboos bin Said Al Said. Stasera raggiungerà poi gli Emirati Arabi e è un'area geoeconomica importantissima per il nostro paese. 349-238-6666 per gli sms. In Kuwait, per esempio, più 66% le nostre esportazioni nei primi sei mesi del 2012, quasi mezzo miliardo di euro, con un saldo attivo, cioè la differenza tra import e export, per 390 milioni. In Qatar, più 27% le nostre esportazioni, il saldo è però negativo perché da alcuni di questi paesi importiamo petrolio. E il Qatar è stato nel 2011 il primo paese al mondo per crescita reale, più 18% del PIL. Italia Oman più 40% le nostre esportazioni, Italia Emirati Arabi più 26% le nostre esportazioni. L'appello di Monti lo ascolteremo tra un attimo. Vorrei invece ringraziare per averci raggiunto proprio da Loman Fabio Scacciavidani, che è il capo economista del Fondo Sovrano. Buonasera. Buonasera e buonasera agli ascoltatori. Scacciavidani, è chiaro che non le posso chiedere di entrare nel dettaglio delle trattative tra il Fondo Sovrano, cioè dello Stato dell'Oman, e il governo italiano, ma il timore qui è, si dice molto, ma Monti è andato in giro a svendere l'Italia. Ecco, lei che ha seguito anche la parte, insomma, di incontri a livello ufficiale, ha avuto questa impressione o è più una richiesta, a mio avviso molto più legittima, di far tornare qualche capitale in questo paese che non è esattamente che le attraga così facilmente? Prego. No, il punto è che la missione del presidente Monti è per favorire gli scambi sia a livello commerciale sia a livello di investimenti. Ora, il fatto di pensare a svendite è frutto di una visione provinciale e molto limitata delle relazioni economiche. Il benessere, la ricchezza viene proprio stimolata e viene favorita dagli scambi economici. Quindi, quando le imprese italiane si internazionalizzano, quando i capitali vengono attirati dall'estero, vuol dire che il paese e l'economia è sana. Pensare di rinchiudersi nel proprio orticello, guardando con sospetto gli investitori stranieri e credendo di poter adottare una politica meramente mercantilista, è non soltanto antistorico, è proprio una strategia perdente. E quali sono le opportunità più interessanti? Cioè, voglio dire, l'intera parte del Golfo Persico ha tanti capitali che derivano dal petrolio, sì. E ha voglia di investirli. Allora, c'è un doppio rapporto: da un lato stanno facendo investimenti in loco, pensiamo solo a Olimpiadi e quant'altro, Mondiali e quant'altro, ma hanno anche voglia di investire questi capitali in Europa. Quindi qual è l'interesse più forte verso l'Italia e che cosa invece, quale potrebbe essere l'interesse delle imprese italiane, che sono già molto presenti, devo dire, per gli investimenti soprattutto infrastrutturali, mi sembra di capire. Moltissimo, un po' perché i prezzi del petrolio in tempi recenti sono stati alti dal punto di vista, se lo guardiamo da un punto di vista storico, ma crescono anche perché poi questi proventi vengono reinvestiti nell'economia locale, quindi in infrastrutture. Le infrastrutture significa attirare talenti, significa attirare lavoratori, quindi questi lavoratori poi hanno bisogno di case, di vestirsi, consumano, eccetera, eccetera, e quindi il volano della crescita viene attivato dagli investimenti pubblici grazie ai proventi petroliferi, ma poi prende una direzione nel settore privato e nello sviluppo delle imprese locali. Il vero nocciolo della questione per quanto riguarda i rapporti bilaterali tra Italia e questi paesi del Golfo è proprio la integrazione delle due economie. Questi sono paesi dove c'è ampia disponibilità di capitale, quindi le imprese italiane avrebbero l'interesse ad attirare questi capitali per potersi espandere, per migliorare il loro bacino di clientela, per finanziare l'internazionalizzazione, insomma per migliorare la loro posizione competitiva. E da questo punto di vista sicuramente c'è un interesse da parte degli operatori di questi paesi verso le imprese italiane. Credo che sia questo il motivo fondamentale per cui la missione del presidente Monti è vista con enorme interesse sia dai governi, quindi dal settore pubblico, sia dal settore privato. Lei, per concludere, ritiene che dopo una missione come questa poi vi sarà il cosiddetto follow up, cioè una ricaduta, potranno aumentare gli investimenti dell'intera penisola nei confronti dell'Italia? In linea generale queste missioni aprono la strada, poi il follow up è un po' sta un po' sia al settore pubblico sia agli operatori privati. In altre parole, qui viene scavato un solco. Ci sono rapporti che vengono stabiliti, ci sono contatti che vengono creati, poi sta un po' alla sensibilità sia degli imprenditori, certo, sia delle strutture pubbliche di solidificare questi rapporti e di arrivare a concludere progetti, a concludere contratti, a concludere investimenti. Beh, intanto devo dire che il fondo del Qatar oggi ha detto di essere pronto a mettere 1 miliardo di euro di investimenti nel settore turistico della Sardegna, 1 miliardo di euro, senza snaturare e non cambiare natura questa bellissima isola. Terremo in considerazione le caratteristiche della Sardegna. Ora, visto quello che abbiamo appena ha raccontato sul Sulcis e l'Iglesienta, ecco, 1 miliardo di euro in investimento turistico alla Sardegna sarebbero, lasciatemelo dire, una manna vera e propria in questo periodo, se fatti con i crismi e con il rispetto della natura. Ma voglio dire, noi italiani, soprattutto il sud, siamo stati bravissimi a massacrare il nostro paesaggio in questi anni, quindi non iniziamo a dire arrivano gli arabi e ci distruggono il paesaggio, perché grazie ci abbiamo già pensato da soli in molte aree di questo paese. Grazie anche a lei e per l'orario anche. Grazie a Fabio Scacciavillani, capo economista del Fondo Sovrano dell'Oman. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto. Vi lascio alla nostra programmazione. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.